Eccoci qua, dunque, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, solo le ore 21 in punto. E anche per oggi, 11 marzo del 2020, inizia prove tecniche di trasmissione fino alle 22.30. Al momento non so se andrà in onda 25 o'clock, in genere intorno appunto alle 22.30 dopo il sottoscritto, per cui vedremo. Intanto diciamo il sito che è www.ondarossa.info per usare anche lo streaming per collegarsi e quindi attraverso un computer, uno streaming già abbastanza frequentato al momento. Il telefono comunque lo 0649 1750. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Vado a ricordare ovviamente la nostra campagna di crowdfunding, non solo per quanto riguarda il radioabbonamento, 30 euro per 1000 adesioni entro maggio, scegliendo la modalità che più si preferisce, appunto il crowdfunding, ma anche un conto corrente bonifico e anche a mano qui in San Lorenzo. Si va sul banner specifico e si sceglie. Una lunga sequenza di saluti con il medico terapeuta, musicista sperimentale qui di Roma, il buon Hypercube Rodrigo Passannanti in quel di Londra, Maya e Nicola Locci dalla Sardegna, Nicola Locci come Stigmate, Daniel L. Bones Records di Roma con la sua omonima etichetta e anche Dan BK, progetto musicale. Gianluca Becuzzi, istituzione della musica sperimentale italiana, e Maria qui da Roma. Il buon Cristiano Bocci, Chemical Resistance dalla Toscana, Like Awake anche lui, protagonista della scena sperimentale, ambient qui di Roma. Riccardo Bonati di Ascension a Milano. La Black Cat di Ernesto e Giuliana qui a Roma, Marco qui a Roma. Immancabile Omicidio con Antonio Zoviet in quel di Firenze, Pioggia d'Ambra con Emanuele Fais dalle Marche, Dulcis in Fundo, Raffaele Pezzella, la sua Nesplay Sounds Group, 8 Tower, eccetera, nonché come sonologist musicista. Ancora qualche salutino invece. Eloquence Recycle, il maestro H501L. Nicola Locci l'abbiamo salutato. Lupsi con Lucia Cagliazza in quel di Udine. Enkil, Franco Berletta, Black Lava, eccetera. E molti di loro li ringrazio anche per aver aderito alla campagna di crowdfunding. Ed è ora di iniziare. Lo facciamo con un progetto che proviene dall'Interland romano, esattamente da Zagarolo. Zagarolo. E da Zagarolo viene New Rising Throne. Musicista che ormai calca da parecchio tempo, diciamo, una scena dark ambient nostrana, che da un po' era assente, diciamo, con un nuovo disco, fatta eccezione di una compilation uscita nel 2016. Infatti a livello, diciamo, di disco ufficiale eravamo rimasti a Long Lines of Hidden Structures della Cyclic Low, e si riparte proprio dalla Cyclic Low e dell'Old Europa Café con questo The Outside, un doppio CD uscito proprio all'inizio del 2020. Lui è Gabriele Panci, si muove da solo soletto in questo progetto. Thank you. Ci ascoltiamo la prima traccia, The Outside, The Sunrise, e poi Corrosion of Pillars. Eccoci qua dunque, New Rise and Throne, ultimo lavoro dal nome Doubtside, un doppio CD, quindi un'uscita molto importante per questo artista, ripeto, di Zagarolo, qui vicino a Roma, Gabriele Panci, che salutiamo. Un saluto anche a Renato, che ci sta ascoltando dalla Sardegna, quanto mi sembra di leggere. Una new entry dunque, Renato. Sorta di colonna sonora concettuale, come scrive qui il buon Riccardo, che prevede l'evoluzione di una storia di fantasia e di cui si arriverà presto a un'esperienza di realtà virtuale. Dopo secoli di isolamento, la razza umana inizia un viaggio alla ricerca delle cause che hanno portato alla fine del suo mondo e per la prima volta si avvicina alle strutture, nuove forme di vita che si sono sviluppate e si sono evolute nel vuoto di The Outside. Un artista che si pone evidentemente nel solco di molte produzioni, per esempio della Cold Meat Industry, su tutti i Rise on Death, naturalmente anche rispetto al maestro Lastmord. Nota a margine, aggiungo io, secondo me attualmente molto più ispirato a New Rise and Throne anziché un Rise on Death, ma questo chiaramente poi è un mio personale giudizio. Dunque Dark Ambient di spessore molto evocativo, giustamente definito glaciale, penetrante e alienante, che sono però degli aggettivi che rispetto alla musica hanno una valenza positiva. Intanto vado a salutare anche Loredana qui a Roma, che si è aggiunta al parterre, direi abbastanza vasto questa sera. E la Val d'Aosta di Jean-Claude Obertot. Invece noi adesso scendiamo leggermente più a sud, andiamo a Napoli, andiamo da Raffaele Pezzella, che gli affezionati qui di questo spazio non ha, rispetto a loro chiaramente non ha bisogno di presentazione. Fondatore della Nespresso Sound Label e della Eight Tower Records, etichette molto importanti e interessanti, che hanno il merito di avere anche distribuito e aver fatto conoscere delle realtà molto particolari e anche molto lontane da noi, su tutti, ma questa è una mia fissazione personale, la scena sperimentale dell'Iran, ma c'è anche quella del Libano, eccetera, eccetera. Questa sera iniziamo il nostro viaggio attraverso Drone Islands, The Lost Maps, il secondo capitolo Drone Islands, quindi come può suggerire il nome, si pone accento soprattutto sul discorso dei drone, dell'ambient, di rare realtà assolutamente rarefatte. Cominciamo con Rapun, con questa Sphinx Wings, la prima traccia, seguita poi da un artista a me più sconosciuto rispetto a Rapun, ossia Gaspar Peralta. Entra il clamore coro dell'As Estrellas dell'Alba. Chiaramente qui Raffaele Pezzella ci potrà rendere edotti. Thank you. E lui era Roger Story, Robin Story, scusate, meglio conosciuto come Rapun, credo musicista proveniente proprio dalla Gran Bretagna, che va ad aprire questa compilation, Drew Island, The Lost Maps, assemblata da Raffaele Pezzella. Compilation che va avanti con quell'artista di cui conoscevamo poco, Gaspar Peralta. Un saluto a Lucia qui a Roma e a Fulvio Biondo, anche lui di Solar Lodge. un talento in ascese, il giovane Gaspar Peralta. Mi ricordavo vagamente fosse messicano, perché probabilmente incontrato in un'altra compilation fatta da Raffaele Pezzella. E comunque lui compone anche la seconda traccia di questo Lost Island. Scusate, Drone Islands e The Lost Maps, non trovavo più la copertina e quindi mi ero dimenticato il nome. Trovata, bella copertina peraltro, una compilation che racchiude gruppi in parte noti, cioè l'onnipresente Simon Ballestrazzi, Trom, Autopsia, Schlostegall, eccetera eccetera. Pian pianino la ascolteremo praticamente tutta nelle prossime settimane. Comunque un trittico di eccezione, devo dire, o quanto forse non dovrei dirlo io: New Horizon, Tron, Rapun e Gaspar Peralta, tre artisti che in qualche modo si somigliano. E giustamente con Rapun vengono anche menzionati Zoviet France, Scanner, insomma pezzi di storia della scena sperimentale. Quindi è ora di cambiare un attimino registro e ce ne andiamo in Lussemburgo da Rom di Jerome Reuter. Qui si campionano il sangue, la fatica, la morte, il dolore della Seconda Guerra Mondiale, tirando fuori un disco che bene o male trasuda antimilitarismo da ogni poro. Si chiama Kafferzeit, questo ultimo lavoro di Jerome Reuter, e noi ci ascoltiamo quattro brevi estratti e forse pure cinque, vediamo un po'. Einschlag, Landsknecht, Brudenkampf, Distill e Verbanterd, ovviamente tutte tracce assai brevi. Eisenstein, da ist man still verloren. le mai piantare. Sollen sich alle zurückerinnern an die Zeit, in der Stadt und Dorf im Bruderkampf standen und Unrast selbst in die ruhigsten Dörfer eingezogen waren. Einschlag um Einschlag. Erdkämpfen, Klatschen, das Peitschen der Gewehrschüsse, das Tackern der MGs, das Heulen der Granaten, dieser Lärm des Gefechts, der vorher die Luft erzittern ließ, ist seit einigen Minuten verstummt. Unheimlich, diese plötzliche Stille. Die keine Stille ist. Nur ein Atem holen. Ancora Kraftwerkzeit per quanto riguarda Rom. 21:40, onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Salutiamo Dario Righi di Progetto No Name, progetto toscano. E dunque, questa era Kafferzeit, ci siamo ascoltati 5 brevi estratti da questo album di Rom, l'ultimo lavoro di questo artista lussemburghese Jérôme Reuter. E mi piace sempre menzionare il suo vecchio Flowers of Exile, dedicato al nonno antifranchista e alla nonna antifascista. Un disco che trasuda guerra, ma che trasuda anche la sua condanna. Un disco che lasciamo e noi andiamo avanti. Anche qui facciamo un salto veramente netto. Ce ne andiamo da Hypercube e Nuane, un duo proveniente dalla Gran Bretagna, giacché Rodrigo Passananti ormai vive a Londra da molti molti anni. E ci ascoltiamo Tifarica e Organic Texture, estratti da Global Oxide. E intanto mi dicono che il presidente del Consiglio Conte sta parlando in televisione, in diretta Facebook, non so se anche in TV, penso di sì. Intanto noi andiamo avanti con Hypercube e Nuane in questa trasmissione un po' irreale, ma il momento è quello che è. Saluto anche Issei Toal nel frattempo, che ci ha raggiunto da un po'. Domenico Arcuri sarà il commissario speciale, c'è chi diceva Bertolaso, addirittura. Mentre Hypercube e Nuane ci fa compagnia anche alle riflessioni, secondo me, perché questi giorni credo che molti di noi hanno pensato, circondati da malinconia, in una Roma, per esempio, particolarmente spettrale e vuota. Global Oxide, dunque, ultimo lavoro di Hypercube e Nuane, eccellente lavoro di IDM, breakbeat, un suono frammentato, destrutturato e ricostruito, come Rodrigo Passanantis sa fare ormai da molti molti anni. Dunque, da quanto ho capito, vengono confermate le disposizioni degli ultimi giorni e osservate per 2 settimane e poi si vedrà. Quindi mi sembra che non ci sia stata la ventilata chiusura totale, come diceva per esempio Fontana, il presidente della regione Lombardia, e tutta, diciamo, l'entourage leghista e la destra in generale chiedeva più rigore, probabilmente per distinguersi o solo per quello. Quindi alimentari aperti, ovviamente, servizi pubblici, trasporti pubblici garantiti, e ci mancherebbe pure. Lasciamo queste meravigliose aritmie di Hypercube. E andiamo un po' a tastare il polso di un'altra situazione in ascesa. Sto parlando degli Hyde, un progetto americano al secondo lavoro, e che era prevista una tournée con Boy Archer anche qui in Italia. A questo punto, chissà, a Roma era il 10 aprile, ma la vedo un po' male, la vedo un po' dura la questione. Noi ci accontentiamo per adesso di andare a conoscere il secondo lavoro ed ultimo lavoro, dal nome Hell is Here, guarda un po', l'inferno è qui. 3 tracce, Censo 999 SSSD.